giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Torna sui banchi la maturità, il giorno del tema d'italiano per quasi 9.000 studenti della regione. Emergenza siccità, decreto in arrivo per il razionamento dell'acqua, le voci di chi cerca di non sprecarla. Solo a Trieste mancano 400 addetti nella ristorazione, domani un evento dedicato a chi cerca lavoro. 1.217 nuovi contagi oggi e un decesso, schizzano all'insù i ricoveri ordinari, stabili quelli in intensiva. Corriere improvvisato rubava gasolio dai tiri in sosta con tubo imbuto, era già ricercato per furto aggravato. Domani a Udine l'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro, uccisa a Codroipo dal marito, le figlie affidate alla nonna. Sport in Friuli, campionati nazionali crono di ciclismo con Ganna, De Marchi e Cecchini, nel basket Cividale si gioca la A2. 12:31 minuti, buongiorno da Livia Liberatore, Rita Micoli. Sono 8.914 giovani ammessi all'esame di Stato in Friuli Venezia Giulia. Mascherina non obbligatoria ma raccomandata. Questa mattina si è affrontato il tema d'italiano. Ore 7:30 del mattino, liceo Petrarca di Trieste, a gruppetti in attesa di entrare in aula per la prima prova scritta dell'esame di maturità, gli studenti appaiono sereni e sicuri. Sì, ho dormito, meno del solito, però ho dormito, sono abbastanza in ansia, però per ora le prove scritte sono comunque superabili. Il vocabolario cartaceo nell'era fluida del digitale non è passato di moda, anzi. Che sia italiano, che sia la nostra lingua o meno, sia se stiamo studenti italiani o meno, penso serva anche per ricontrollare l'eventuale dubbio dell'ultimo minuto. Al Toto Tracce, prima dell'apertura delle buste, il titolo che viene dato per scontato è quello relativo alla guerra. Rispetto al titolo letterario, invece... Io mi aspetto una traccia di letteratura, cioè spero, perché se hai studiato più o meno quella la riesci a superare. Ma quale autore? Spero Ungaretti. Secondo me anche Verga. Non penso ci chiederanno del Covid, forse della guerra, ma non parlerò di quello, non sono abbastanza informato. Ore 8:45 circa, aperte le buste, sale la tensione. La guerra in Ucraina non c'è, ma Covid sì. E la prima traccia sarà proprio Verga e Pascoli. Fabia Dell'Antonia, presidente di commissione all'Istituto Volta. Ma credo che il ministro sia stato molto buono quest'anno, nel senso che sono autori Verga e Pascoli studiati e anche i temi d'attualità sono molto, come dire, alla portata dei ragazzi. Parliamo di razzismo, ambiente, pandemia, quindi temi che sicuramente hanno affrontato nel corso dell'anno e di cui si parla tutti i giorni. 8.914 gli studenti ammessi all'esame di Stato in Regione, primo esame scritto dopo 2 anni di emergenza Covid che aveva ristretto l'esame al solo colloquio orale. La mascherina in aula non è obbligatoria e se ne vedono poche, ma consigliata, visto che in caso di contagio l'esame slitta le supplettive a luglio, 8 gli studenti già rinviati. Ma rispetto alla pandemia, sereni, i ragazzi dicono non siamo la generazione Covid. Ci sono state tante cose prima del Covid alla fine, secondo me sono solo 2 anni così... Però ora stiamo riprendendo a vivere normalmente. Vi sentite segnati da questo? No, io no. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di emergenza siccità, qualche breve isolato temporale nel pomeriggio e nella serata di ieri non sono certo bastati. Piogge un po' più abbondanti sul medio Friuli e qualche grandinata in Carnia e si attende il decreto della regione per razionare l'acqua. Ci dice tutto in diretta Antonio Di Bartolomeo. Le piogge delle ultime ore sono state solo un palliativo insufficiente a superare lo stato di crisi idrica. È piovuto tra i 5 e 20 mm sui bacini montani nelle ultime 24 ore, con maggiore insistenza sull'area pordenonese, dove si è guadagnata all'incirca mezza settimana di irrigazione, spiegano dal Consorzio Bonifica Cellina Meduna. L'acqua caduta in Alto Friuli vale appena un giorno in rigo, invece ci sarebbe bisogno di 100 mm di pioggia, dice la presidente del Consorzio Bonifica Pianura Friulana Rosanna Clocchiatti. Intanto si alza la voce delle regioni nei confronti del governo affinché sia dichiarato lo stato d'emergenza per la siccità. Sono i governatori delle regioni del centro-nord, quelle più in difficoltà, a spingere di più verso questa soluzione. Parleranno anche di questo con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio in una conferenza delle regioni convocata in seduta straordinaria dal presidente Massimiliano Fedriga. Nell'incontro si discuterà anche dei rimborsi delle spese sostenute per l'emergenza Covid che da tempo le regioni chiedono al governo. Sul tema siccità, gli uffici tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia sono al lavoro per scrivere la bozza di decreto che Fedriga si appresta a firmare nei prossimi giorni. Il modello sarà simile a quello dell'Emilia Romagna, dove il presidente Stefano Bonaccini ha dichiarato ieri lo stato di crisi regionale. I comuni dell'Emilia Romagna sono invitati a mettere ordinanze per la riduzione degli utilizzi non indispensabili di acqua, come per esempio il lavaggio dell'auto. Ricordiamo che in Friuli Venezia Giulia, così come nella maggior parte dei territori italiani, la crisi idrica al momento coinvolge solo la parte agricola, non è a rischio l'approvvigionamento di acqua potabile. E sono tanti i cittadini che, vista la carenza di risorse idriche, hanno già deciso di autoregolamentarsi e di applicare delle buone pratiche per il risparmio di acqua, mentre il comune di Pordenone, ad esempio, sta lavorando ad una propria ordinanza sulle limitazioni all'uso. Signora, lei che cosa fa? Lavo le verdure e recupero l'acqua e la uso per bagnare i fiori. La preoccupante crisi idrica impatta anche sulle nostre abitudini quotidiane. Si cerca di ridurre il consumo d'acqua recuperando la preziosa risorsa con i più svariati stratagemmi, come ci raccontano le voci raccolte questa mattina a Pordenone. Anche quando lavo la verdura cerco di recuperare quell'acqua per bagnare poi i fiori. Lo stiamo facendo, penso, un po' tutti. Il giardino viene bagnato, però con parsimonia, non per bagnare l'erba. Certo, non tutti ci dicono mettono in atto comportamenti consapevoli. Uso anche l'acqua bollita, la conservo se posso e lavo i piatti. Purtroppo sto nel condominio, io risparmio ma gli altri se ne fregano. Io giro per le campagne in bicicletta e vedo troppo spesso acqua dalle tubature che esce, acqua sprecata. Io cerco di non sprecare acqua, ma lo spreco più grosso è là. Scarsità d'acqua che si riflette anche sui prezzi di frutta e verdura. Mancando l'acqua, anche i nostri prodotti vanno su di prezzo. La gente già fa fatica di suo e anche le cose da mangiare aumentano, non è semplice. L'microirrigazione può essere una soluzione, un investimento, sì, sicuramente, però quest'anno dobbiamo riuscire a passare l'estate. E c'è chi osserva, serve un cambio di rotta anche culturale. La continua abitudine ad acquistare a tutti i costi qualunque cosa e consumarla crea ste robe, queste faccende, per cui non siamo capaci globalmente di controllare l'uso. Qui non c'è questa cultura, fatica. Quando mi lavo i denti sto sempre attento a chiuderla. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo il tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 26 gradi con mare quasi calmo, con temperatura di 25 gradi e mezzo, Udine e Gorizia 27 gradi e mezzo, a Pordenone 25 e mezzo, a Tolmezzo 25 e mezzo, a Tarvisio 23 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 21 e mezzo, a Sappada 21, sul Piancavallo 18, sul Monte Lussori 18, sul Monte Zoncolan 17 gradi e mezzo, a Grado 26 gradi e mezzo, a Lignano 29 con temperatura del mare di 23 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia: questo pomeriggio cielo in genere variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti, possibili rovesci sparsi e qualche temporale, più probabili sulla zona montana e pedemontana, ma non esclusi anche sulle altre zone. Qualche temporale potrebbe essere anche forte, farà ancora caldo afoso di pomeriggio, specie in pianura, venti a regime di brezza. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile, con possibili locali rovesci e qualche temporale. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino, specie di prima mattina, e poi in serata farà caldo, specie di pomeriggio, sulle zone interne. Una notizia di viabilità: sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio si segnalano al momento code di circa 3 km a causa di lavori in corso tra bivio A4 A23 e uscita Udine Sud. E ora passiamo ai temi dell'economia. Sioto Leodotto Transalpino approva il bilancio 2021, cresce l'occupazione ma anche la preoccupazione per il costo dell'energia. Lo scorso anno al terminale marino sono state sbarcate oltre 37 milioni di tonnellate di greggio trasportate alle raffinerie collegate. Il bilancio chiude in attivo con un valore della produzione di oltre 94 milioni e un utile di 2 milioni 400 mila euro. Era 1 milione 600 mila euro nel 2020, primo anno di pandemia. 4 addetti in più in Siot, la forza lavoro è arrivata a 126 addetti diretti, cui si somma l'indotto. Un risultato di bilancio positivo in un anno molto complesso, ha il commento di Alessio Lilli, amministratore delegato di SIOT e general manager del gruppo TAL. Ai fini di bilancio, ha spiegato, hanno inciso in maniera considerevole i costi relativi all'energia per la forza motrice del greggio nella condotta, che sono cresciuti in un anno di circa il 62%, una condizione che è destinata ad avere un impatto consistente anche nel futuro. Sono stati presentati oggi a Udine all'Università i nuovi laboratori dedicati all'Internet delle cose, la frontiera più avanzata dell'innovazione tecnologica. 7 nuovi laboratori dedicati all'innovazione digitale e tecnologica nel polo di ricerca applicata avanzata dell'Università di Udine. In 600 metri quadrati si possono trovare competenze sperimentali diverse applicate all'internet delle cose, ovvero elettronica, elaborazioni delle informazioni e misure, modellistica elettromagnetica, fisica tecnica industriale, architettura, disegno e metodi dell'ingegneria industriale, ingegneria della vela, monitoraggio del mare. È già presente una start-up che si occupa di componenti per software. La strada percorsa è da sviluppare ancora, quella delle applicazioni teoriche universitarie alle esigenze delle aziende, un filo diretto tra industria e ricerca di competenze. A quasi 2 anni e mezzo dal suo avvio, sottolinea il rettore Pinton, l'Uniud Lab Village già può contare su 31 laboratori e su collaborazioni con aziende e realtà come Confindustria Udine e Area Science Park. A proposito di Confindustria Udine, la presidente Anna Marischi Danieli ha posto l'accento anche sull'aspetto strutturale dei laboratori, che deve essere un richiamo per le aziende, oltre che sull'importanza dello scambio fra offerta di lavoro e domanda di competenza. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Confcommercio di Trieste organizza domani un evento per far incontrare imprese e chi cerca lavoro. Le posizioni sono quelle di addetto alle vendite, camerieri, baristi, cuochi. Abbiamo intervistato il direttore della FIPE Trieste, Fabrizio Ziberna. La FIPE stima che a Trieste nel settore della ristorazione mancano circa 400 tra camerieri, cuochi, pizzaioli, aiuti cuochi, barman. Una carenza di organico che si è palesata dopo l'uscita dal lockdown. Quindi sono posizioni che si sono create e che si stanno creando dopo il Covid per fenomeni interni e meccanismi anche contrattuali particolari. Il settore è regolato da contratti nazionali. Nel caso di un contratto di 40 ore settimanali, mediamente la retribuzione è di circa 1.200 euro, varia poi con l'anzianità e altri parametri. Ma il contratto che si usa maggiormente è quello intermittente, detto anche a chiamata. È la formula contrattuale che per lo più oggi viene utilizzata per garantire quella flessibilità che anche qua il Covid in qualche modo ha comportato. Le imprese richiedono una flessibilità che questo tipo di contratto offre. Il contratto prevede una normale assunzione, lo stipendio alla fine orario e il costo orario è lo stesso. La particolarità del contratto sta nella sua flessibilità. Io oggi ho bisogno, chiamo la persona. La persona altrettanto flessibilmente può rispondermi no, oggi io però, siccome è sabato, ho cambiato le mie abitudini, sto con la famiglia, non vengo. E da qua anche si può capire il perché c'è una maggior richiesta di posti di lavoro, perché con un contratto a tempo indeterminato o determinato, ma di tipo, diciamo così, fisso, banalizzo, io so, ho la certezza di avere una persona che viene a lavorare. Con il contratto a chiamata questo vincolo non c'è, io posso rispondere a chiamate anche per più datori di lavoro. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il bollettino della pandemia: sono 1.217 nuovi contagi da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, su poco meno di 6.000 tra tamponi molecolari e test rapidi. L'incidenza sui 7 giorni arriva a quota 516 per 100.000 abitanti. Oggi c'è stato un decesso a Pordenone. In terapia intensiva restano in 7, come ieri, ricoverati aumentano nettamente. Le persone accolte in altri reparti Covid, ieri erano 99, oggi sono 118. Consegnata alla FDS Udine la nuova autoemoteca donata da Danieli, che presto inizierà a operare sul territorio. Il mezzo è stato realizzato su misura da una ditta specializzata di Somma Lombarda in provincia di Varese. Quando nell'autunno del 2020 le restrizioni a causa della diffusione del Covid-19 stavano penalizzando la raccolta di sangue nei centri trasfusionali, è stato evidente a tutti l'importanza di poter contare su un mezzo mobile, ha detto il presidente Roberto Flora. È nata così così l'idea di dotare la FDS di una seconda unità, idea rafforzata quando i numeri hanno confermato che l'automoteca già in uso era diventata nel frattempo il secondo punto di prelievo nella provincia di Udine. L'altro mezzo in uso da oltre una ventina di anni continuerà a essere operativo dopo una revisione. Ancora la cronaca, è arrivata la conferma che sarà eseguita domani all'ospedale di Udine l'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro, la quarantenne uccisa dal marito Paolo Castellani di 44 anni una settimana fa nella loro abitazione di Codroipo. L'esame è stato fissato dalla procura di Udine dopo che il GIP ha nominato curatrice speciale delle due bambine della coppia la nonna materna. La designazione consente di poter eventualmente nominare un perito di parte per tutti gli accertamenti che saranno disposti nel corso dell'inchiesta. La nonna si stava già occupando in questi giorni delle bambine di 5 e 8 anni. Incidente questa mattina in una falegnameria a Mortegliano. A quanto si apprende, un lavoratore si è ferito a un braccio ed è stato trasportato in ospedale a Udine in codice giallo. Ed è ancora cronaca, lavora come corriere improvvisato per far fronte al caro benzina, ruba gasolio dai camion in sosta. È successo a Trieste. L'uomo nella pausa pranzo raggiungeva i parcheggi dove si fermano i camion e, armato di tubo imbuto, aspirava il costoso liquido nero facendo abbondante scorta nelle sue taniche. La cosa è andata avanti per mesi sino a quando non è stato scoperto. Il corriere nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce finché i carabinieri del radiomobile di Aurisina non lo hanno rintracciato in un momento di relax a bordo di un pullman diretto in Romania, dove va a raggiungere il suo paese per rinnovare la patente. Dal controllo è emerso che a suo carico era già stato spiccato un mandato di cattura per furto aggravato. Il 36enne romeno, che deve scontare quasi 2 anni e 10 mesi, è stato così portato in carcere al Coroneo. Sono in partenza da Fernetti 65 tonnellate, 5 camion per circa 300.000 dosi di cibo destinati alle ONLUS ucraine per sfamare gli animali domestici degli abitanti delle zone di guerra e i canili. Le forniture di cibo per cani e gatti sono il frutto dell'operazione umanitaria congiunta tra il comune di Trieste, una nota azienda italiana di cibo per animali, e un'azienda di spedizioni con sede a Fernetti. E ora lo sport, oggi big delle due ruote ai campionati italiani di ciclismo cronometro. A San Giovanni al Natisone i principali specialisti italiani della corsa contro il tempo, in scena tra gli altri Filippo Ganna e i corridori di casa Alessandro De Marchi ed Elena Cecchini. Il velodromo di San Giovanni al Natisone ospita per la terza volta consecutiva un tricolore. Alle 13.30 al via degli Under 23, alle 14.30 i professionisti, alle 15.30 le donne elite. In ogni categoria il corridore successivo partirà un minuto dopo il precedente. Solo per i professionisti uomini il gap tra un atleta e l'altro sarà di 2 minuti. Tra i favoriti Ganna e Affini per succedere al campione uscente Matteo Sobrero, tra le donne la campionessa italiana su strada a cronometro Elisa Longo Borghini. Il basket, è il giorno di gara 5 nella finale playoff di basket di Serie B, con cui la Web Gesteco Cividale se la vedrà in uno scontro secco contro Vigevano dopo 2 match vinti per parte. Si gioca alle 20 davanti al pubblico friulano per una storica possibilità di raggiungere la A2. Per il calcio, oggi a mezzanotte scadono i termini per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Tra i club a rischio la Triestina, che ha presentato la domanda ma deve però mettersi in regola entro stasera con l'indice di liquidità. Nessun problema invece per il Pordenone. Al via oggi il Female Football Tournament, la competizione femminile del torneo delle nazioni di Gradisca, che vede confrontarsi le nazionali Under 17 di Italia, Cile, India e Messico. Oggi giornata inaugurale con 2 gare alle 18.30, Italia-India a Gradisca e Cile-Messico a Cervignano. La pagina della cultura e degli spettacoli è stato presentato questa mattina su Uns Europe, il festival musicale delle lingue minoritarie che si terrà dal 30 giugno al 15 luglio. Abbiamo sentito Carlo Puppo di Radio Onde Furlane, l'emittente che supporta la manifestazione. È un'edizione quella del 2022 che si articola in due sezioni, una estiva che comincia il 30 giugno e si conclude il 15 luglio e una parte terminale con il concerto a Udine in cui suoneranno e si esibiranno praticamente tutti i gruppi che verranno selezionati attraverso il bando internazionale che abbiamo pubblicato qualche settimana fa e cui risultati li sapremo verso luglio più o meno. Per quanto riguarda questa edizione estiva avremo sia progetti friulani di qualità come l'ultimo lavoro di Loris Vescovo o anche le chansons del Cormor con una serie di musicisti friulani giovani o anche di esperienza da Nicole Coceancic a Simone Piva, da Guido Carrara a Davis Trussiat e naturalmente tutta una serie di proposte che arrivano dall'Europa, in particolare da comunità in cui si parlano lingue minorizzate come il Paese Basco con Saraso Saia, piuttosto che della Val d'Aran, una vallata pirenaica di lingua occitana in Catalogna con la giovane cantautrice Alide Sanz e dopo anche dalla Sardegna col progetto Meigama e dal Galles un nome di peso che è quello di Carwin Ellis, compositore, produttore, polistrumentista che ha collaborato tanto per fare qualche nome con Oasis o Pretenders. Come sempre gli ospiti non terranno solo un concerto ma si terranno più esibizioni come negli anni scorsi? Sì, a parte i friulani che si esibiranno in una serata sola, per quanto riguarda gli ospiti internazionali saranno presenti in più località friulane, quindi con di solito due concerti e proprio questa è una delle caratteristiche anche dell'edizione estiva. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. La musica, due appuntamenti oggi per il Festival Internazionale Folkest ad Aurava di San Giorgio della Richinvelda alle 20.45 nell'ex scuola di Piazza Orologio, concerto tra blues e folk con il duo composto dall'autrice, cantante e violinista americana Lucia Comnes e dal chitarrista Luca Giovacchini. Alla stessa ora al Parco Europa di Cassacco di scena il cantatore friulano Lino Stralino con i Fale Curte. Con l'anteprima di Viceversa, nuovo album del contrabbassista Giovanni Maier che celebra i 100 anni di Mingus, si apre stasera Le nuove rotte del jazz, rassegna che compie 20 anni e che si terrà fino a venerdì negli spazi del Museo Revoltella di Trieste. Alle 20.30 Maier sarà accompagnato dal trombettista Flavio D'Avanzo e da 3 studenti del Conservatorio Tartini. Si conclude con il duo pianistico di Elisa De Luigi e Anna Maria Paganini la rassegna estiva Erev Laila, sera notte, nuove tracce verso Gerusalemme sulla terrazza del Museo Ebraico di Trieste. Il programma del concerto è dedicato a 2 musicisti italiani del Novecento, Alfredo Casella e Gino Marinuzzi Junior. Inizio alle 21. Musicisti, scienziati, scrittori, pedagogisti insieme per esplorare la creatività e immaginare un futuro diverso. Parte oggi e prosegue fino a domenica Come l'acqua dei fiumi, festival di Spilimbergo promosso dal Comune con l'Istituto Musicale Fano. Stasera alle 20.45 l'inaugurazione al Teatro Miotto con un concerto dal titolo Tra pop e folk con l'orchestra di fiati dello stesso Istituto Fano, il rapper e produttore friulano DJ Tubet. Per conoscere il resto del programma e approfondire il filo conduttore di questa edizione abbiamo sentito Giulia Battistella, direttrice artistica, insieme a Enrico Cossio. Avremo delle giornate ricche di incontri e di appuntamenti dedicati al pubblico più vasto, assieme a musicisti, a scrittori, a pedagogisti. Avremo uno spazio dedicato ai laboratori creativi per i bambini, ma anche uno spazio dedicato ai 100 anni della scuola di Mosaico. E poi ancora il concerto del coro giovanile del Friuli Venezia Giulia e quello dell'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Il filo conduttore che avete scelto quest'anno è la creatività, perché questo tema? Sì, perché è un tema che si addice a questo periodo di forti necessità di cambiamento, no? E quindi creatività per noi ha un valore di propulsore, no? Cioè di far scaturire, di far nascere qualcosa di nuovo da un periodo che diciamo ci ha chiesto tanto, no? E quindi in qualche modo attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso i laboratori, insomma attraverso le voci, cerchiamo di mettere in atto appunto concretamente e in musica e in parola quello che la creatività può esprimere. Trieste, Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. libri alle 19 nel giardino del Visionario, presentazione del libro Istria, i luoghi del cinema di Carlo Gabersek. Gabersek dialogherà con lo scrittore Walter Zele, che con il libro La cortina di celluloide ha indagato la questione di Trieste nel cinema della Guerra Fredda. In 600 pagine e 1750 fotografie, i luoghi cinematografici della penisola istriana, dalla costa ai borghi dell'entroterra. Il libro è pubblicato con il sostegno della Cineteca del Friuli. Alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste, Dialoghi Europei e Circolo Istria presentano Un fiumano a Roma, libro dell'ex ambasciatore croato a Roma, Damir Grubiša, nato a Fiume da padre croato e madre italiana. L'autore, che sarà presente, racconta nel libro la sua vita di uomo al servizio delle istituzioni, quelle della Jugoslavia prima e della Croazia poi. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Walter Vidonis e Federico Comari, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Livia Liberatore, Rita Micoli, che lo hanno realizzato insieme a Ludovico Fontana. L'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.